Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti? Radio Wombat! E Radio Wombat! E Radio Wombat! E Radio Wombat! E Radio Wombat! E Radio Wombat! E Radio Wombat! Bentornati in questo sabato sera qua con noi su Radio Wombat a Basement Records, la trasmissione fantasma che a volte c'è, a volte c'è, non c'è, poi ritorna, poi non è dichiarata, ma in puro stile Wombat. Cambia, muta, cambia, certo, è così, certo. Evolve, cambiano i componenti, cambiano i componenti, cambiano i dischi, cambiano i ritrovamenti, però Basement Records è ancora qui con voi in questo sabato sera su Radio Wombat. Io penso che nel mio primo ingresso nella trasmissione ho fatto un effetto eco, perché mi sono messo esattamente davanti alla cassa e quindi avrete sentito un riverbero spontaneo, effetto eco. Ora ho risolto. Ora abbiamo risolto, ma è anche questo il bello. Comunque è un effetto analogico, è tutto, cioè, puramente analogico, come le cose che facciamo sentire. Rigorosamente, come sempre vi ricordo, Basement Records è rigorosamente vinilico, 100% vinile, però volevo intanto salutare il mio compagno di puntata qui. Ciao a tutti, io sono il nuovo compagno di puntata di Dalai Lama, mi presento da solo? No, se no si potevo... Ah, ok, allora mi introduci, mi introduci. Con noi qui stasera è Ginox, insieme qui con noi, che è il colui che ha ritrovato il nuovo tesoro vinilico da farvi ascoltare per questa nuova serie di puntate di Basement Records. C'hanno il piccolo esploratore che è andato a scavare nelle cantine del babbo. Il piccolo esploratore delle cantine ha ritrovato un tesoretto di vinili. Conseguenza di un trasloco, che me hanno cambiato casa, un grande nel trasloco, sono andato ad aiutare il trasloco, ecco, in cambio ho ricevuto questo pool di 45 giri provenienti, credo, per la maggior parte da jukebox, nel senso che mio babbo era un grande... diciamo un buon acquirente degli stock di jukebox che si potevano trovare anni fa al mercato del Balloon. Adesso si trova ancora roba, però adesso li vogliono tutti perché la cosa è tornata... Ora fa figo. È tornata di moda, invece quando andava al mio babbo, che erano già passati gli anni 60, credo, però non da tanto, si trovava un sacco di roba degli anni precedenti. Certo. Ed erano passati appena 10 anni e c'erano ancora i mangiadischi, tutte quelle cose lì. C'era, quindi era ancora tutto. Roba di consumo, non da collezionisti. E quindi ci siamo ritrovati a casa con questi 500 e passa 45 giri, quasi tutti con scritto edizione per jukebox, sì. O cose simili, e adesso ne riproponiamo questa sera 10, credo. Sì, però io poi a casa ne ho altri 1000, quindi potremmo andare avanti un sacco. All'infinito. Ma sentiamo un po'. No, non sentiamo perché mi devo ancora preparare. Inizia a raccontare, io intanto preparo. Il primo ritrovamento di questa nuova manna arrivata a Radio Wombat è un 45 di Tommy Steele, in questo caso Hair Down, Hair Down. E chi era Tommy Steele? Tommy Steele era un rocker della prima ora della Terra d'Albione, cioè ha esordito nel 1956 con il suo primo album sull'onda lunga dei successi rock di oltreoceano di Elvis the Pelvis in Memphis. E quindi ovviamente sfruttava l'onda lunga dei rocker americani per riuscire a sfondare anche dall'altra parte dell'oceano, e infatti il primo successo che entrerà in classifica era già nel 1957 con il suo primo singolo. Ma poi ha fatto di tutto sto Tommy. Sì, ha fatto lo scultore, ha fatto l'attore, ha cavalcato cioè era un artista tutto tondo. Sì, ha cavalcato l'onda del rock per poi darsi ovviamente al cinema e alla televisione. A uno deve pagare il mutuo, che compri la casa grande, fai successo sull'onda di Elvis. Ho voluto comprare la villa grande quanto un quartiere. Ti pigli l'accolli e poi devi pagare. E poi ha fatto anche lo scultore, tra l'altro. Non sappiamo con che risultati, però. Non ci è dato verificheremo, sapere, cercheremo, detto fra chiameremo noi, nel nostro pool di Radio Wombat i nostri storiche e storici dell'arte e gli chiederemo quanto è quotato Tommy Steele nell'arte contemporanea, sì. nel mercato odierno, certo, e prenderemo senz'altro in considerazione l'acquisto di alcune opere qua, per si sa mai, cioè, uno investe in questo periodo e comunque. Sì. Se vogliono un paio di cassonetti in cambio, sì, il tesoretto di Radio Wombat noi lo spendiamo integralmente nell'acquisto di sculture di Tommy Steele. Diversificazione degli investimenti, certo, lo fa anche Google, cioè. Certo. Si prova? Sì, sentiamoci questa Hair Down, Hair Down di Tommy Steele. You gotta let your hair down, everybody, if you wanna have a time. Let your hair down, everybody, cause won't you that I'm gonna let my hair down, everybody, cause I'm gonna let it down. Hair down, everybody, hair down. Everybody, hair down. Everybody, hair down. Everybody, hair down. Everybody, come to the hair down, hold down. Who's that in the corner? Oh, what's it all about? I've never been known So pick a little wallflower for it's blossomed out. You gotta let your hair down, everybody, if you wanna have a time. You gotta let your hair down, everybody, 'cause I'm warning you that I'm gonna let my hair down, everybody. You're gonna let it down. Hair down, everybody, hair down. Everybody, hair down. Everybody, hair down. Everybody, hair down. Everybody, hair down. Everybody, come to the hair down, hold down. My body's really swinging. I can see it move. We're all moving out of that rut and into that well-known groove. You're gonna let your hair down, everybody. If you wanna have a time, you're gonna let your hair down, everybody. Just a moment, you did. I'm gonna let my hair down, everybody. We're gonna let it down. Yeah, hair down. Everybody, hair down. Everybody. E questo era Tommy Steele con Hair Down, Hold Down. Questo brano mi sembrava ballereccio, sì, molto sì, ballereccio, no? Sui country anche, eh? Anche country addirittura. Sì, secondo me un po' di country. Beh, comunque Wikipedia lo classificava come cantante folk british. Sì, era sì, british, sì, sì, no? Sì, sì, british, sì, sì, assolutamente. Però mi sembrava anche con quest'andamento. Quindi country, folk, da qualche parte, cioè comunque in America il country non è che se lo sono inventati. A chi l'avranno preso? Tra gli irlandesi. In America... è una delle musiche folcloriche, il country. Sì, però dove sono arrivati questi a fare... No, sì, cioè, sì, sì, sì, no, dai, saranno arrivati da là. Vabbè, tiriamo a indovinare, vabbè, si capisce che non lo sappiamo. E il prossimo è un pezzone dei Rascals. Come se sapessimo invece chi sono i Rascals, ma invece... Abbiamo un pezzone perché è un inno della rivolta del 1968. E infatti il pezzo è People Got to Be Free. Ed è stato una hit nel 1968, cioè ha scalato le classifiche, capito? Esattamente, anche perché ha avuto la fortuna, sfortuna, diciamo, di capitare e di uscire in un momento... Sono stati precisi, cioè hanno fatto un'operazione di marketing di quelle... Esatto. Cioè capitavano tra? Tra l'assassinio di Martin Luther King e quello di Kennedy. Viso, a metà loro, guarda caso. Tac. Guarda caso. E qui ci sta comunque una nuova pista per le dietrologie. Cioè quanto, capito, i Rascal c'entravano con queste cose. Ora, quando Trump, come ci ha promesso, capito, rilascia i documenti segreti sull'omicidio di Kennedy, verrà fuori il nome dei Rascal. E noi ve lo anticipiamo qua su Radio Wombat, capito? Degli infiltrati della CIA, eh? Avviso. Altro che i leak di WikiLeaks. Questa è roba forte. Oppure saranno stati i Rascals, oppure saranno stati... i project manager dell'Atlantic a dirgli uscite ora con questa canzone. Effettivamente il disco qua sopra è siglato Atlantic, che non era una piccola casa discografica. Noi gettiamo i dubbi, capito? Dubbi. Facciamo questa informazione libera come le persone. Però potremmo dare anche credito ai Rascals, che magari fossero animati dalle migliori intenzioni, dalla piena sincerità e dalla commozione del momento. Erano compagni capelloni i Rascal. Esatto, erano anche capelloni e con le barbe lunghe, quindi dai, il periodo era quello, però... Sì, però magari diamogli un minimo di fiducia e non andiamo sempre a pensare male, anche se incidono su Atlantic. No, non è per quello, è che il nostro mondo è così, no? Sei abituato ai complotti, le cose, vedi un complotto dappertutto, non credi più nella buona fede. Da tutte le parti. Comunque invece ora ce l'ascoltiamo. Dai, ascoltiamoci. People Got to Be Free, The Rascals, Basement Records. questi erano The Rascals con People Got to Be Free, vero inno sessantottino, proprio che cavalcava. Tu l'avevi mai sentito prima? No, neanch'io, onestamente. Però, no. Però è perché, perché veniamo tanti anni dopo. Veniamo tanti anni e dopo. Poi la propaganda ce l'ha nascosto, capito? Per non rinvigorire i fuochi della rivolta. Esatto. Capito? Finora ci hanno tenuto nascosto questo inno del 68 dei The Rascals, ma noi lo riproponiamo qua. L'hanno tenuto nascosto per non fare riardere il fuoco che ognuno ha dentro. Certo, ma questo è compito nostro, capito? Riaccendere gli animi. Siamo qui apposta a dissotterrare i tesori per ritrovare appunto queste perle disperse nel tempo e nella polvere, così abbandonate senza un motivo, e noi le ritroviamo. Questa trasmissione serve proprio a questo. Disperso nel tempo nella polvere sembra Blade Runner, sembra la fine di Blade Runner. Però se ci penso un po', le cantine potrebbero essere lo sono, qualsiasi lo cosa sia potrebbero essere un ambiente da Blade Runner perché sono un po' umidicce. Esatto. C'è quel clima piovoso, sempre umidiccio, da reumatismi, questa roba qua. Se tutto il resto del mondo esterno viene distrutto, Le cantine, essendo sopravviveranno, solo potrebbero rimanere così. A meno i dischi rimarranno. È meglio rimetterli in cantina. Allora, ora quando sei finito di qua, io li rimetto in cantina. Occhio all'umido, eh. Il prossimo è un disco di Jimmy Castor Bunch, sempre Atlantic, sempre su Atlantic. Tutto loro facevano proprio. E Jimmy Castor era un cantante, polistrumentista e compositore funk, R&B, soul, insomma, faceva un po' tutti di tutto i generi un po', di tutto un della, po'. Della musica. Artista della musica black. Eclettico. Assolutamente eclettico, si vede anche dalla sua immagine, e ha avuto come più grande successo il singolo Troglodyte, The Caveman. Ma noi non vi facciamo ascoltare questo. Assolutamente no, sarebbe troppo scontato. Però vi facciamo sapere che Jimmy Castor è stato assolutamente saccheggiato da tutto, praticamente l'onda dell'old school del Bronx, che ha campionato un sacco di suoi brani, e specialmente Africa Bambata. Garanzia questa. Abbiamo detto una garanzia. Ha suonato tantissimo i suoi pezzi nei block party del South Bronx negli anni 70. Capito cosa vi abbiamo tirato fuori? E tra l'altro dal 68 al South Bronx, capito? Africa Bambata. E tra l'altro questo 45 che abbiamo sotto le mani, diviso in due facciate, è uno di quei pezzi saccheggiati da Africa Bambata per i suoi set. Esattamente, stiamo parlando di King Kong del 1975. Si fa partire? Direi di farlo partire subito, e sentiamo cosa abbiamo saccheggiato Africa Bambata. Kong! He lived in the jungle where he was born the king. His great strength made him lord of everything. No creature crossed his path and lived for long. His name, so legend tells us, was King Kong. Was never measured, but was great. The jungle shook beneath his mighty weight. His arms were muscled, sturdy as a tree. His chest was thick and wide as it could be. Come on, Sambe! Come on, Sambe Kong! Come on, Sambe! Come on, Sambe Kong! Come on, Sambe! He did dance a party. He spoke at times, but hardly. Thank you. back. A Tyrannosaurus launched a sneak attack. They fought. First Kong went down, then up again. The fight went on. No one knew who would win. Kong reached and seized the monster with both hands. Then summoned all the strength at his command. He stretched the creature's mouth till it was split. Then like a child, began to play with it. He beat his hairy chest and looked around. 5 miles away, they heard his roaring sound. Come on, come on, man. From everyone he knew, he got respect. Whoever failed to give it, he'd correct. No creature crossed his path and lived for long. His name, so legend tells us, was King Kong. E ora cambio in diretta. E questo era Jimmy Castor Bunch. Anzi, questo ora è il secondo lato di Jimmy Castor Bunch. E via, King Kong, Radio Fatto Wombat. Cambio. Questo era Jimmy Castor Bunch con King Kong, lato 1 e lato 2. Bellissima, tra l'altro. Stavamo giusto commentando, dicendo che non poteva che averla saccheggiata. Ma sembra fatta apposta per farci loop. È già cioè, fatta. Il secondo lato era praticamente un loop di 2 minuti e 50. Sì, sì, sì. Cioè, più comodo già, di così. Già fatto, praticamente. ci saranno messi d'accordo. Cioè, con Bambate si è accorto, hanno detto: a me mi serve quella roba lì. No, oppure, io te la promuovo. Oppure, come tutti i DJ, Afrika Bambaataa aveva un grande naso e un grande orecchio per cercarsi la musica giusta per fare le sue cose. Vedi, io penso sempre male comunque. Vedi, c'è sempre detto c'è l'inciuccio, il complottismo. Non lo so da cosa mi viene fuori sta cosa. È il mondo che mi ha, che ormai mi ha rubato la parte migliore di me. Ormai il mio fanciullino, ormai sono proprio rancore senile, espresso solo, così a solo gratis. Solo odio il rancore. Ma il prossimo pezzo ma qual è? Il prossimo Gente sconosciuta anche qua. Sì, sì, Election si chiamano i nostri, il prossimo, la band del prossimo disco, esattamente con il singolo Nevertheless. E lo facciamo sentire solo perché dall'altro lato c'erano invece i più blasonati, The Doors, con Hello I Love You. Hello I Love You, esatto. Però abbiamo detto, no, quello è banale, no, ma sentiamo il lato B, chissà chi cazzo che sono. Che Election secondo me non li conosce veramente nessuno, anche perché sono durati veramente da Natale a Santo Stefano, come si dice dalle però nostre questi, parti. Questi spaziano, fanno pure progressive, capito? È che ho letto che inizialmente erano partiti come band folk rock. Va bene. Ma poi con l'ingresso del nuovo batterista che proveniva dal gruppo di Alexis Corner, tra l'altro Alexis Corner è stato un grande del blues revival inglese, e hanno virato verso poi il progressive rock, quindi hanno avuto un'evoluzione. Però vedendo che sono stati in attività solo dal 67 al 69, forse trattasi sempre anche questo disco di jukebox, quindi vuol dire che nei jukebox italiani è finito, altrimenti io non ce l'avrei. Esattamente, questa roba. Quindi qualcuno le monetine per farlo suonare ce l'ha messe. Direi proprio di sì. E andiamoci a sentire quindi questa Nevertheless degli Eclections. Nevertheless, I can't help dreaming of you, I can't help falling for you, I just can't help. Nevertheless, I won't try calling your name, I won't try. Thank you. questo vocalizzo finale per renderla un po' più sbarazzina, eh? Sì, perché verso metà c'è stato un... c'era stato un attimi di panico, sì, sì, in ardo... effetti. Sì, crolli, mi sa qua, che... in regia. Mi sa che gli Election qui sì, erano ancora quelli nella fase folk rock, indecisi in dove andare, su, su cosa fare. Chissà come sono diventati quando hanno iniziato con la progressive. È meglio non sapere. È meglio non sapere. Perché due deucce potrebbero. Ora comunque, mettiamo un pezzo per ripigliarsi. Mettiamoci un bel pezzo per riprenderci. E quindi mettiamo su Georgia Gibbs con la sua The Hula Hop Song. Un po' molto più frizzante. Sì, molto più frizzante. Molto più frizzante. Cantante bianca, però. Molto attiva in realtà negli stili, sì, tipici della black nei, music, negli stili black, soprattutto rhythm and blues e anche swing, tra l'altro. Ha cantato un po' con tutti. Sì, tra l'altro stiamo parlando di una cantante che è nata nel 1919, quindi è roba... Infatti il pezzo che andremo ad ascoltare adesso, Hula Hop Song, è il singolo che è uscito nel marzo del 1959, anche giusto per farti capire le coordinate temporali di cui stiamo parlando. Qua sopra c'è anche scritto che suona in realtà accompagnata da un'orchestra, Ugo Peretti and His Orchestra. Sì, sicuramente. E leggo di questa The Hula Hop Song che ha avuto anche un certo successo di classifica in Svezia. Hai visto? Arrivando addirittura nella dodicesima posizione di inizio 1959. Capito sti svedesi. Gli svedesi dovevano trovare delle chicchine disperse nel mare della discografia americana. Come noi d'altra parte. Come noi, esattamente. Chi è in questo momento che ce l'ha sul vinile, che ce l'ha pronto lì sul... sul giradischi per farvelo sentire noi, quindi Basement Records ovviamente, Radio Wombat. A red one and a green one, yellow, white and blue. Hula hoop. Young and older, rich and poor, are spinning them too. Hula hula hula. Hula hoop, hula hoop. Everyone is playing with the hula hoop. Look at them spin, trying to win. Anyone can play from 3 to 110. Slipping away. Hula hoop. Now if they rock when they should sway, it would fall to the ground. Hula hoop. Then again, once again, the hoop spins around and round. Hula hula hula. Hula hoop, hula hoop. Everyone is playing with the hula hoop. Look at them spin, trying to win. To 110. Hula, hula, hula, hula. Hula hoop, hula hoop. Everyone is playing with the hula hoop. Look at them spin, trying to win. Anyone can play from 3 to 110. Questa era la Georgia Gibbs con la sua Hula Hop Song per rimettere un po' di allegria qui a Basement Records. Ora siamo tutti saltellanti. Ora infatti. Siamo super saltellanti, ci mancava solo la corda, il cappello con la tesa e un grande prato verde dove correre, No, Ginox mi sta facendo delle facce. No, è così che noi vinciamo l'inverno. No, con non questa musica estiva. No, non lo lascia, non lasciamolo vincere l'inverno. Va bene, ha vinto lui. Già. No, e te devi andare in snowboard. Lasciamolo già. Vincere l'inverno. No, hai ragione, scusa. No, che vinca l'inverno. Che vinca l'inverno! E adesso, dopo questo inno all'inverno, andiamo ad ascoltarci i Los Bravos. Che noi pensavamo, io pensavo di possedere, capito, il singolo Black is Black, che è quello famoso. E in realtà la copertina ce l'ho, ma dentro il disco non ce l'ho. La copertina è Black is Black, però non c'è andata, cioè... Sì, nella... cioè comunque è andata bene. Sì, nell'errore non siamo cascati malissimo. È andata comunque molto bene, perché questo è il singolo che i Los Bravos, dopo il loro successo in Spagna, si sono formati a metà degli anni 60 a Madrid, i Los Bravos, e con l'esplosione della musica beat e cantando le canzoni in inglese, arrivarono anche in Italia e per promozione al Festival di Sanremo del 1967 cantarono con Milva in lingua italiana appunto il disco che abbiamo noi adesso, uno come noi. Singolo. Chissà come parlano in italiano, sarà quell'italiano strambo che loro sono spagnoli ma fingono l'accento inglese. E quindi viene un finto italiano parlato in uno spagnolo che finge l'accento inglese. Sarebbe bellissimo. Solo ascoltiamo, perché non l'abbiamo mai ascoltato neanche noi. Perché credevamo appunto che ci fosse un altro disco noi dentro. Pensavamo di proporvi il classico del Northern Soul, Black is Black, capito? Esatto. E invece no, vi stiamo proponendo un altro pezzaccio, ma che non abbiamo mai sentito. Eravamo già qui pronti a sbrodolarci addosso con il Northern Soul e bla ma bla bla. Niente. E invece il bello è proprio questo, è un'altra, però ne vale comunque la pena di sentire. Via. E questi sono i Los Bravos con Uno Come Noi. Non ti curare di quelli che ti guardano per strada, lanciando occhiate che sono più taglienti di una spada. Non san capire che la tua vita non ha padroni, ma non si comprerà. Lascia pure che dicano di te quel che gli pare, e solo invidia non hanno più il coraggio di cambiare. Sopra tui giorni senza problemi splende con sole la felicità. Che fuggono la gente senza cuore e vincerai senza lottare la tua battaglia per la libertà. Se tu vuoi fare quello che vuoi, avvieni con amore, da tanti amici che fuggono la gente senza cuore, e vincerai senza lottare la tua battaglia per la libertà. Oh, per la libertà, oh, per la libertà. insomma, questi Los Bravos. Hai visto? È tutto un inno alla libertà oggi. The Rascal, poi Los Bravos. Si percepisce. Erano quegli anni, capito? Anche questi 67, però vicino a 68. Non mi sembrava ci fosse Milva. Forse Milva era solo nel duetto. Secondo me solo da Sanremo se la so giocata Milva. Perché poi anche qua non era citata. Non era minimamente citata. E vabbè. Così. Il prossimo pezzo invece abbiamo scoperto che... cioè avevamo una chicca di un artistone e noi pensavamo fossero canzonette. Pensavamo che fossero canzonette e invece Allora Mambo. Allora Mambo proprio. Allora sì. Mambo, perché abbiamo sotto le mani un singolone del re del Mambo, signori. Ovvero Perez Prado. Perez Prado è proprio considerato uno dei massimi artisti della musica latinoamericana e uno degli allievi di Xavier Cugat. Proprio fa parte della tradizione cubana musicale. Non era proprio in Buena Vista Social Club, perché ovviamente ci ha lasciato prima. Wow. Ma più che altro Perez Prado era un compositore e un direttore d'orchestra. Tra l'altro, i suoi due più grandi successi sono il Mambo numero 5, il Mambo number 5 e il Mambo number 8, che soprattutto il numero 5 è universalmente famoso per poi essere entrato in classifica un po' di anni fa, ma però rivisitato parecchio. È abbastanza parecchio rivisitato, sì, anche perché qui stiamo parlando comunque di musica degli anni 50, musica orchestrale degli anni 50. Cioè, che questo 45 giri porta proprio sopra i segni del tempo, cioè delle, praticamente sì, ondulato, delle onde, non siamo noi che facciamo degli strani effetti, è proprio che il disco naturalmente questo sarà portato a fare così. Non è propriamente flat, diciamo. Non troppo, sì. Però questo 45 impreziosisce, capito? Ancora di più, perché ne vale ancora più la pena farlo sentire e per farvi capire che proprio l'abbiamo ritrovato nelle condizioni, nelle situazioni che abbiamo descritto all'inizio. Noi li ricopriamo ancora prima di terra, prima di farli ascoltare. C'è proprio il trattamento proprio fatto apposta, polvere, terra, umido, e solo allora ve li facciamo ascoltare. Esatto. E anche se è il re del Mambo, adesso sentiamoci di Perez Prado, Ticketing Twist. Prado, c'è una pompa. Poi il disco non è saltato neanche troppo. Cioè non si vede, cioè noi da qui lo vedevamo che faceva tutto su e giù, però voi non avete visto, sentito niente, secondo me. Anche secondo me. La potenza del vinile, capito? Se era un CD questo. Esatto, cioè se era un CD, cioè, come te lo ascoltavi questo? Se. Proprio te lo sputava fuori, diceva "No, cioè, è rotto". Invece error. Invece no, il vinile quanto analogico, se riesce a far girare la puntina, essa suona. Esatto. Suona anche non collegata a niente, perché se mettete la puntina su un vinile non attaccato a nessuna uscita sonora, comunque sentite che il solo passare della puntina nei solchi produce, certo, il suono. Potete cercare su YouTube il video, quelli ce ne sono tanti che fanno gli esperimenti, i quindicenni, i quattordicenni intelligenti, prendono il classico spillo, poi fanno un cono con un pezzo di carta e poi tu trovi una cosa che gira e gliela appoggi sopra ed esso suona, capito? La magia. Yeah. Eh? La magia della puntina. È bellissimo. Ora invece che ci ascoltiamo? Adesso ci ascoltiamo Brenton Wood. Come tu mi stavi... Allora, Brenton Wood è stato uno dei primi dischi che ho trovato nella collezione del mio babbo e questo lo metto sempre, anche quando mi fanno mettere i dischi alle serate, perché in realtà questo si tratta di un pezzone che è stato riconosciuto, soprattutto in Italia, ha scalato le classifiche nel 1968, e ricaschiamo di nuovo lì, capito? Un altro ninno della rivolta. Madonna. E trattasi questa di una canzone d'amore. Proprio, questo è proprio classificabile amore. Come il soul del sentimento, dell'amore, eccetera. Nel 68 appunto le classifiche italiane hanno fatto suonare un sacco questo disco. Tra l'altro numero uno, anzi... Sì, proprio numero uno nella classifica italiana. È stato il numero uno di bandiera gialla. Esatto, eh? Per queste cose qua. Per due settimane non consecutive. Saranno state settimane estive, là dove sboccia primaverili, l'amore, perché è proprio una canzone d'amore anche questa. Anche secondo me. Ed è anche super ballabile, si tratta di un soul molto tendente a quelli che erano i ritmi un po' del Northern Soul, e in realtà apprezzabile anche... secondo me almeno, diciamo da tutta la tradizione ballereccia seguita dopo. Cioè io quando faccio ascoltare questo pezzo, ad esempio, ai miei amici breaker, essi lo ascoltano, ma non solo. Ho scoperto che uno di loro, che è uno di quelli che mi piace di più mettere i dischi, fa il DJ, queste cose qua, una collezione di dischi immensa, una volta autonomamente mi ha tirato fuori questo disco dicendo che era uno dei suoi preferiti, capito? E ci siamo ritrovati dicendo, ma allora lo conosci anche te, capito? E quindi secondo me questa è una perla. Valorizza ancora di più il ritrovamento, secondo me, sì, in sì, modo sì, assoluto. Sì. Casuale però, non del tutto casuale evidentemente. C'è un disegno dietro questa cosa. Il disegno del destino che ha fatto che ha voluto darci un segno. E ci ascoltiamo? Esattamente, Give Me a Sign di Brenton Wood. Don't walk me, don't leave me on the road. But if you need me, show me that you love. And when I'm feeling blue, and I want to, there's just one thing that you should do. Just give me some kind of sign, girl. Oh, my baby, to show me that you're mine, girl. Some kind of sign, girl. Oh, my darling, to show me that you're mine, girl. All right. Do you want me? Give me a little sweet talk. If you don't want me, don't leave me on, girl. But if you need me, show me that you love me. And when I'm feeling down, wearing a frown, you be there when I look show me that you're mine, girl. All right. Just give me some kind of sign, girl. Up, my baby. Just show me that you're mine, girl. All right. Ditemi se non era famosa questa canzone di Brenton Wood. Ma secondo me sì, ma poi nessuno saprebbe dire come si intitola. Quella canzone lì, eh? Che canzone è? Che canzone è? Però come l'hai fatta partire? Ah, no, ma senti! Io sospetto che sia colonna sonora di qualche film famoso. Non so perché non è possibile che tutti la conosciamo, ma nessuno di noi sa che cazzo sia. Soprattutto... Nessuno di noi sapeva qual era il titolo della canzone e soprattutto chi era il cantante, l'artista che cantava questa canzone. E invece ora lo sapete, l'avete scoperto grazie a Basement Records. E nel 68 lo sapeva un sacco di gente in realtà. Nel 68 probabilmente lo sapevano quasi tutti. Evidentemente sì. Esattamente. E ora andiamo con... dispiace dirlo. Non si dovrebbe, lo sai, no, l'ultimo, noi non siamo stanchi. Però a un certo punto il bandone deve chiudere. Ci sa degli impegni, una vita, non è che possiamo stare qua per voi sempre. Stare qui tutti il sabato sera a mettere... Sarebbe molto divertente, però magari in altre occasioni. Però non è che voi uscite il sabato sera a divertirvi, fate le cene, le cose, e noi qua chiusi a girare i dischi, capito? Spalare dischi come in miniera, va bene un po', però ci basta. Si diverte, come si dice, siamo amici, ci si diverte, però... Siamo disposti a rovinarci alcune ore del sabato sera, ma non con tutte. Con molto piacere, tutte. Tra l'altro. Ce li impegniamo, ma con moderazione. E questo ultimo disco per stasera di Basement Records è la Bidu Orchestra con Chic Chica Chic Chic. Di cui non sappiamo dire niente. Non sappiamo dire... Io la riferisco genericamente a un'etichetta che ha prodotto cose interessanti in un periodo compreso tra il soul e la disco music. Ecco. E basta. E tra l'altro era edito per Bidu Music, per sì, Bidu Orchestra. Bidu Records, sì, Bidu Orchestra che incide per la Subidu Music qualcosa. È tutto però Bidu, Subidu. Diamo almeno il... Sarà qualcosa di... L'anno ed è saranno 1976. Dei sardi immigrati in Canada. Esatto. Perché qua si fa riferimento al Canada, evidentemente. Sì, sì. Che nostalgici della loro terra producevano questa musica dalle sonorità tipicamente subiddu. Direi della musica assolutamente subiddu. Vabbè, proviamoci. E salutiamo. Ah, salutiamo, giusto, perché quando si saluta educatamente, non è che si va via sbattendo la porta. Buon sabato sera a tutti i nostri ascoltatori da Gino. Ora potete uscire, ora che abbiamo finito potete uscire anche voi. Esatto, e alla prossima volta con Basement Records, sempre qui su Radio Wombat. Ciao. Ciao. Thank you.